Satispay è l'app che ha già rivoluzionato le modalità di pagamento di 500.000 di italiani. Con Satispay puoi pagare nei negozi, scambiare denaro tra amici, pagare ricariche e bollettini, fare donazioni e risparmiare in modo smart. Scarica gratuitamente l'app Satispay per Android e iOS. Vivi smart. Usa Satispay. Quante volte vi sarà capitato di dire o di sentirvi dire questa frase: so come ti senti. È un'espressione importante che nasconde forse più di quello che uno può pensare. Si chiama empatia, cioè una delle caratteristiche che rendono unico l'essere umano: l'empatia, la capacità di comprendere, di immedesimarsi nello stato d'animo degli altri. È una predisposizione, bisogna volerlo a volte, bisogna anche avere interesse per il tuo prossimo, e non sempre ne abbiamo. Forse la definizione stessa di empatia è cambiata negli anni. Una cosa è certa però: ci vuole grande sensibilità per essere empatici, ma anche freddezza, perché bisogna evitare che questo ci possa distruggere. Bene, il protagonista della storia di oggi ha entrambe queste caratteristiche. È un uomo sicuramente empatico, ma anche razionale, coraggioso. Stiamo per raccontare la storia di un uomo capace di immedesimarsi in menti non comuni, cioè nelle personalità che spaventerebbero chiunque, entrare nel cervello dei serial killer. Lui si chiama John Douglas, è stato il primo criminal profiler della storia. Non ricordo bene cosa mi ci avesse portato, ma mi ritrovai in un piccolo cinema universitario di Bari dove proiettavano Il silenzio degli innocenti. Non fu soltanto la costruzione perfetta della storia a conquistarmi, fu soprattutto la realtà del male e il prezzo che paga chi lotta per arginarlo. Con gli anni avrei capito che il principio di verità di quel film si nascondeva nelle pieghe più in ombra della pellicola, non in Hannibal Lecter né in Claire Sterling, bensì nel suo mentore, che nel film aveva il nome di Jack Crawford, ma nella realtà ne aveva un altro: John Douglas. Le parole dello scrittore Donato Carrisi presentano bene la natura del protagonista di oggi. Lui, Douglas, caratterialmente è molto diverso dal personaggio del film. Una cosa in comune però ce l'hanno: sono entrambi agenti dell'FBI. In questa veste, verso la fine degli anni 70, John con il suo collega Robert Ressler avvia un progetto innovativo nell'ambito della psicologia criminale. I due incontrano e studiano i profili psicologici dei più pericolosi assassini d'America, e da questo lavoro nascerà il metodo moderno di conduzione delle indagini. Il cognome da nubile di mia madre era Holmes. La autobiografia di Douglas inizia così. Eppure questo non è l'unico elemento che può far pensare, diciamo, a una predisposizione o a una predestinazione, cioè a un futuro da esperto del crimine. Come spesso succede, lui da ragazzo pensava di fare altro. Ma partiamo dall'inizio. John Edward Douglas nasce a Brooklyn il 18 giugno del 1945, figlio di un tipografo. Quando ancora piccolo il padre si trasferisce a Hempstead nel Long Island e qui lui vive da ragazzo. Non è particolarmente brillante a scuola, però è molto attivo, peraltro è alto e robusto, è uno sportivo eccellente, gioca a baseball, a football, ha buoni risultati, ama stare all'aria aperta, gli piacciono gli animali e peraltro non ha dubbi, lui da grande farà il veterinario. Dopo la maturità nel 63 si iscrive a un college nel Montana, ci mette 2 anni però a capire che quella non è la sua strada, però i segnali c'erano da subito, salta le lezioni, si fica nei guai con la polizia, ragazzate per carità, però insomma lui non è uno studente modello e quando abbandona definitivamente l'università, quando torna a casa deve affrontare la delusione dei suoi familiari e così fa qualche lavoretto, ma nel frattempo conosce Sandy. Sandy è una bella ragazza che lavora come cameriera nel bar di un albergo. Abitando coi miei genitori non godevo di molta libertà, ma Sandy mi disse che i dipendenti dell'albergo potevano prendere una stanza a prezzo scontato e un giorno ci decidemmo a farlo. La mattina seguente di buon'ora suona il telefono. No, sento che grida Sandy, non voglio parlargli. «Che c'è?» domando io. «Era la reception. Mio marito sta salendo. A questo punto sono sveglissimo.» «Tuo marito?» ripeto. «Non mi avevi detto di essere sposata?» Al che lei mi risponde che non mi ha neppure mai detto il contrario e mi spiega che sono separati. «Bell'affare», penso io. Beh, il nostro protagonista viene salvato dal suo fisico possente, ma insomma rimane il ricordo di un'unica avventura amorosa giovanile, anche perché poco dopo lui deve dare addio alla sua vita da ragazzo. Succede tutto un sabato mattina, la madre lo sveglia per fargli leggere una lettera, la lettera che tutti i ragazzi americani di quegli anni temevano di ricevere, perché siamo nel 1966, è la chiamata per il servizio di leva, stiamo parlando di anni nei quali gli Stati Uniti erano in Vietnam e John ha paura di finire al fronte, riesce a trovare una via alternativa, si arruola in aeronautica, è percorso lungo, 4 anni di addestramento, cioè 4 anni da militare ma quantomeno lontano dalla guerra, peraltro in quel modo lui potrà anche studiare all'accademia militare e recuperare gli anni perduti. Per molti l'addestramento militare è un periodo logorante, ma io avevo una lunga esperienza sportiva alle spalle e benché in quegli ultimi anni mi fossi comportato da perfetto idiota, i rimproveri dell'istruttore non mi turbavano. E poiché ero in buone condizioni fisiche, non avvertivo nemmeno la fatica delle esercitazioni. Mi qualificai rapidamente come tiratore scelto di M16. Durante quegli anni di addestramento si dedica allo sport ma anche allo studio della psicologia. Si congeda dal servizio nel 70 a 25 anni. Nell'ottobre di quell'anno conosce un certo Frank Haines, un agente dell'FBI. Aveva sentito parlare questo Frank Haines di Douglas dall'ex comandante della base e vuole convincerlo a fare domanda di assunzione al bureau. John non è di quell'avviso, lui vorrebbe una carriera nel campo della psicologia del lavoro, ma Frank insiste, insomma alla fine John cede e dopo aver passato la selezione e un breve periodo di addestramento diventa un agente dell'FBI, viene assegnato al dipartimento di Detroit. Panic in Detroit. se l'esercito esige una disciplina rigida, l'FBI è ancora peggio, anche perché il capo dell'FBI, l'abbiamo raccontato in tante puntate, è il terribile Edgar Hoover. Viene chiamato il Vangelo secondo Edgar, tutto quello che accade in quell'FBI, niente caffè o sigarette in orario d'ufficio, camicia bianca, capelli corti, niente baffi o barba, niente telefonate personali in servizio, c'è un protocollo rigidissimo, così ci si deve adeguare. Insomma, il John di quegli anni è molto lontano da quel ragazzo disordinato e svogliato che era prima. È stato costretto in qualche modo a incarnare perfettamente lo stereotipo dello zelante agente FBI. A Detroit lui divide un appartamento con due colleghi, nel frattempo però conosce una ragazza, una studentessa universitaria, si chiama Pam Modica, lei ha 5 anni meno di lui, lui lavora già, insomma le differenze all'inizio sembrano importanti, ma la loro relazione supererà tutto questo, supererà anche il trasferimento di John al dipartimento di Milwaukee, così nel 1972 John e Pam si sposano. La mattina del matrimonio pioveva e io non vedevo l'ora che tutto fosse finito. Chiesi a Bob, il mio testimone, di chiamare Pam a casa dei suoi per sapere se avesse mie notizie. Naturalmente lei rispose di no, al che Bob le disse che non avevo passato la notte a casa. Temeva, aggiunse, che mi fossi spaventato e avessi deciso di fare marcia indietro. Ancora non mi capacito della crudeltà del mio senso dell'umorismo di allora. Alla fine Bob si tradì scoppiando a ridere e io rimasi un po' deluso di non aver potuto sondare più a fondo le reazioni di Pam. Più tardi lei mi confessò che era talmente preoccupata che tutto filasse liscio e sopraffatta dal timore che l'umidità le arricciasse i capelli, che la possibile scomparsa dello sposo non l'aveva turbata più di tanto. E John a Milwaukee ci resterà più di 5 anni, una buona scuola, se la vediamo insomma in prospettiva con quello che farà dopo. Fa un'esperienza anche a Menominee, che è una riserva indiana nello stato del Wisconsin, viene mandato lì per circa un mese. Adesso tutte le atrocità commesse nei confronti degli indiani d'America meriterebbero discorsi molto più lunghi, a volte le abbiamo anche affrontate, però va detto che in questo momento Douglas si trova a contatto con una realtà ben precisa: povertà, lo squallore nel quale gli indiani sono costretti a vivere. Tutto questo porta a casi di violenza, soprattutto all'alcolismo. L'FBI è odiata, è odiata come è odiata nei peggiori ghetti di tutte le città. John indaga su 6 differenti casi di omicidio e non ha nessun aiuto da parte della popolazione, si rifiutano di collaborare, pensate, perfino i familiari delle vittime, tale è la diffidenza nei confronti dell'FBI. Insomma, una situazione disarmante, e lui è messo alla prova. Peraltro deve conciliare tutto con una vita familiare che deve essere più regolare possibile, anche perché nel novembre del 75 nasce Erika, la sua prima figlia. Dedicavo gran parte del mio tempo al lavoro e allo studio e toccò a Pam addossarsi la maggior parte delle nuove responsabilità. Non di meno ero consapevole dei miei compiti e adoravo osservare mia figlia crescere. Fu una fortuna, credo, che all'epoca non mi occupassi ancora di sequestri e omicidi di minori. In caso contrario, non so se mi sarei calato con tanta disinvoltura nel ruolo di padre. Quando nacque Lorin nel 1980, invece, ne avevo già visti parecchi. Beh, la psicologia non è mai stata tenuta in gran conto da Hoover, il capo dell'FBI, che era una persona sicuramente non sottile, un po' grossolana, e così a cascata avevano le sue attitudini anche tutti gli agenti dei corpi di polizia investigativa. L'analisi comportamentale, per esempio, che è considerata fondamentale oggi, allora era liquidata come fuffa di nessuna utilità. Nel maggio del 72, però, Edgar Hoover muore e con la sua scomparsa il Bureau of Investigation comincia gradualmente a cambiare. We'll be right back. classe è un agente operativo a tutti gli effetti e sta indagando su casi di omicidio, ma neanche sul campo. Per esempio si occupa di negoziazione di ostaggi, lavora come tiratore scelto, insomma fa un'esperienza a 360 gradi, però la sua dimensione ideale rimane la psicologia. Viene incuriosito dai processi mentali che stanno alla base dei reati. Perché un rapinatore sceglie una banca piuttosto che un'altra? Perché un assassino sceglie una vittima piuttosto che un'altra? Si specializza John, negli anni 70 frequenta corsi all'unità di analisi comportamentale di Quantico, e questa analisi comportamentale diventa una scienza piano piano, dominata da due grandi personalità. Howard Thieten e Patrick Mullany sono agenti brillanti, sono i primi che cominciano a analizzare la scena del crimine con lo scopo di recuperare informazioni non sull'atto criminale ma sul comportamento, sulla psicologia di chi lo ha commesso. E lo diceva in quegli anni anche Simenon con Maigret. Maigret indagava sulla vittima prima che sui sospetti. E insomma, siamo all'avanguardia dell'analisi comportamentale moderna. Douglas segue con interesse i corsi di Thieten e di Mullany e torna a Milwaukee e comincia, anche se riprende le sue vecchie mansioni, comincia a girare lo stato per illustrare il modo di trattare con i rapinatori. Quindi parla con i manager, con gli uomini d'affari, con i funzionari di banca, e in qualche modo si occupa di prevenzione, se così si può dire. Nel giugno del 77 accetta un nuovo lavoro all'interno dell'FBI, torna a Quantico e entra a far parte della famosa unità di analisi comportamentale. Quando arrivai a Quantico, Mullany stava per andarsene e Thieten era ormai una sorta di guru. Di conseguenza, il compito di introdurmi in quella nuova realtà ricadde sui due istruttori che mi erano più vicini per età e grado di anzianità, Dick Holt e Bob Ressler. Oltre al corso di psicologia criminale applicata, gli istruttori tenevano corsi in forma concentrata a dipartimenti di polizia e accademie in tutto il paese. Erano corsi molto popolari e il nostro intervento era spesso richiesto, soprattutto da capi della polizia e agenti anziani che avevano seguito il programma vero e proprio dell'accademia. Affiancare un istruttore già esperto era un metodo di apprendimento rapido ed efficiente, e io venni affiancato a Bob. Questo Robert Ressler, detto Bob, è del 37, arriva da Chicago, ha avuto una carriera molto lunga nella polizia militare e poi ha approdato anche lui all'unità di analisi comportamentale e diventerà il partner di John. Passeranno molto tempo assieme, sia in aula sia in giro per il paese, nei vari dipartimenti di polizia. I due legheranno molto, probabilmente anche grazie al confronto col collega. John sarà spinto a cercare un approccio diverso all'investigazione, perché allora i detective lavoravano sugli omicidi cercando semplicemente un movente e un colpevole legato al contesto della vittima. Ma alcuni assassini sfuggono a questo sistema, scelgono le vittime apparentemente a caso, e questo li rende più difficili da identificare, li rende più pericolosi. Qui Douglas ha un'intuizione geniale, un'idea che diventerà sicuramente il suo più importante colpo d'ala. I can't seem to face up to the facts. I'm tense and nervous and I can't relax. I can't sleep 'cause my bed's on fire. Don't touch me, I'm a real live wire. Psycho killer, can't you see? Ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba. Better run, run, run, run, run, run, run away. Thank you. se sì. Falco e il Gabbiano torna tra poco, qui su Radio 24. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta il Falco. Il Falco. Il Falco. E il Gabbiano. Stiamo raccontando la storia di John Douglas, l'agente dell'FBI che ha rivoluzionato l'approccio all'indagine criminale. Abbiamo parlato della sua adolescenza, della sua carriera militare, dei suoi studi di psicologia e poi dei suoi tentativi di applicare i suoi studi nell'ambito investigativo fino ad arrivare all'insegnamento insieme a un collega, Bob Ressler. Lui sta girando accademie militari, uffici di polizia per tenere corsi di psicologia criminale. Sta cambiando il volto dell'FBI, della polizia americana. Abbiamo sempre guardato al movente come bisogno o bramosia, giusto? Uno ruba una TV per venderla e comprare droga. Esatto. Ma se mentre è in casa ruba anche le mutandine di tua moglie? Se le rubasse a mia moglie sarei sbalordito. Non le vuole vendere, quindi perché lo ha fatto? È solamente morboso? Potrebbe essere motivato da qualcosa che nemmeno capisce. La nostra sfida è guardare al di là di quello che pensiamo essere impulsi ovvi. Affrontando argomenti come questo, John e Bob si trovano spesso di fronte a un problema: allo studio della meccanica dell'omicidio, dei possibili moventi. E in certi casi non è sufficiente tutto questo a scovare gli assassini. I motivi che portano un uomo a ucciderne un altro possono essere ovviamente molto diversi. C'è una categoria criminale che agisce senza avere un legame con la vittima, senza necessariamente averlo. Oggi li chiamano serial killer, assassini seriali. Bene, questa espressione l'hanno inventata proprio loro, Douglas e Ressler. I serial killer, pluriomicidi, dalla natura compulsiva, uccidono perché hanno bisogno di farlo, non perché le vittime abbiano fatto qualcosa di male, non perché possano trarre del tornaconto dalla morte di qualcuno. Naturalmente il discorso è molto complesso, stiamo semplificando. Quello che ci interessa è comunque comprendere le motivazioni di Douglas e Ressler. Loro vogliono capire perché un serial killer uccide e se le azioni di questi personaggi disturbati possono in qualche modo essere previste. È la cosa più importante. Io e Bob avevamo tenuto un corso a Sacramento e il giorno dopo, mentre eravamo in viaggio, mi capitò di osservare che molti criminali di cui discutevamo erano ancora vivi e che gran parte di loro avrebbe passato in carcere il resto della vita. E se fossimo andati da loro a chiedergli il motivo delle loro azioni e cercare di coglierne il punto di vista, era un tentativo che valeva la pena di fare. L'idea è azzardata, Bob è d'accordo, bisognerà convincere i superiori al Federal Bureau. Ci sono grosse riserve sull'ipotesi di avere un contatto diretto con i condannati. Per i federali, dare la parola a un criminale, anche se per studiarlo, è considerato qualcosa di moralmente scandaloso. Il motto di Bob è: meglio chiedere perdono che permesso. Con questo spirito i due cominciano a visitare le carceri in maniera ufficiosa. Insomma, sta prendendo forma un progetto senza precedenti, perché Douglas e Ressler intervistano uno tra i più pericolosi assassini d'America, Ed Kemper. Lui è condannato a diversi ergastoli, ha ucciso e smembrato 6 autostoppiste, poi ha ammazzato la madre, un'amica della madre, poi si è costituito perché ha detto: non ero diventato celebre come avrei voluto. Un uomo che, quando in tribunale gli viene chiesto quale punizione ritenga adeguata alle sue colpe, risponde: la morte per tortura. What did I do to deserve such a fate? really want to get involved in this thing. Someone handed me this gun and I gave it everything. Yeah, I gave it everything. To this life, looked all around. I saw just what I liked and took what I found. Nothing came easy, nothing came free. Nothing came at all until they came after me. Yeah, yeah. Incontri con Kemper tecnicamente non fanno parte di un vero e proprio studio. Loro, Douglas e Ressler, si stanno limitando a valutare se abbia quantomeno senso a parlare coi criminali. Quello che scoprono è molto interessante, perché Kemper è sicuramente un pazzo omicida, ma è una persona anche intelligente, ha una visione chiara di quello che ha fatto. E allora gli agenti chiedono una consulenza alla professoressa Ann Burgess, che è una psicologa esperta nel trattamento delle vittime di traumi e di abusi. Kemper mostra una totale assenza di rimorso, mancanza di una struttura emotiva profonda, nessuna capacità di rispecchiarsi nelle esperienze altrui. Lo ha capito dalle mie note. Sarebbe stato più chiaro se avesse registrato e trascritto l'intervista integralmente, ma sì. Stai dicendo che non pensi che il nostro intervistare degli assassini sia folle? È proprio l'opposto. Voglio dire, è folle come lo è qualsiasi idea davvero innovativa al riguardo. Ovviamente dovete metterlo su un piano più formale. Ci vorranno molto tempo ed energia per espanderlo in un progetto più ampio con uno specifico questionario. Poi confrontare, comparare e pubblicarlo. Pubblicarlo? Non potete tenere le vostre scoperte solo per l'FBI. Voglio dire, dovreste farne un libro. Un libro? Ehi, apprezziamo la tua fiducia, ma non eravamo autorizzati neanche a mandarti quelle note. Non possiamo pubblicizzare in nessun modo quello che facciamo. Perché no? Il dipartimento ci ha concesso solo i weekend e un ufficio nei sotterranei. Abbiamo gli studenti e i corsi esterni. Non possiamo mollare tutto. Corsi esterni? Non avevo capito che tutto questo non fosse ufficiale. Potremmo renderlo ufficiale, potremmo farlo facilmente. Poi, un libro. Ann Burgess entrerà a far parte di questo gruppo di lavoro. Sarà lei a suggerire di formalizzare il metodo con cui vengono condotti gli interrogatori, di dare a tutto questo un taglio più vicino a quello della seduta terapeutica. Aiuta a rendere il lavoro un vero e proprio studio. A condurre i colloqui ci sono loro due, Douglas e Ressler, che incontrano tra gli altri persone come Charles Manson, lo sapete, l'uomo che organizzò il terribile eccidio di Bel Air, dove Sharon Tate incinta venne massacrata, ma anche John Wayne Gacy, Jeffrey Dahmer, che era detto il cannibale di Milwaukee, e poi David Merkowitz, che era il killer della Calibro 44, una lista lunghissima, 40 tra i peggiori serial killer d'America. Per ognuno di loro la squadra di Douglas ricostruisce sì i fatti, ma soprattutto la storia personale e il profilo psicologico. Nel 1983 avevamo completato uno studio approfondito su 36 individui e raccolto dati relativi a 118 delle loro vittime, in gran parte donne. Da questo studio emerse una metodologia migliore per la comprensione e la classificazione dei comportamenti violenti. Per la prima volta era possibile stabilire un nesso fra ciò che accadeva nella mente dell'assassino e le tracce da lui disseminate sulla scena del crimine. Questo, a sua volta, portò a metodi di indagine e cattura più efficaci, anche se il viaggio nella mente dei criminali è una ricerca di cui ancora non si vede la fine. I serial killer sono assassini che imparano dall'esperienza. A noi aspetta il compito di imparare più in fretta di quanto facciano loro. È chiaro, è un pozzo senza fondo la mente di un criminale, però il fatto che Douglas e Ressler individuino dei comportamenti ricorrenti è molto importante. Il modus operandi, il modo tipico di agire, e grazie a questi studi si cominciano a dividere gli assassini in categorie, non solo per il modo di mettere in pratica un atto criminale, ma proprio per differenti definizioni psicologiche, e quindi la struttura mentale viene messa in relazione al contesto sociale, familiare, e ci sono degli schemi riconoscibili e quindi prevedibili. Questo è il punto. Le ricerche stanno delineando profili criminali ricorrenti, come quello del sadico o dell'ossessivo o del compulsivo, il guardone. Insomma, questo dà vita a un metodo investigativo che oggi chiamiamo criminal profiling. So you live in the bottom of the sea, and you kill all that come near you. But you are very lonely, because all the other fish, Falco e il Gabbiano torna tra poco, qui su Radio 24. Il Falco. Il Falco. Il Falco. E il Gabbiano. E il Gabbiano. E il Gabbiano. John Douglas ha rivoluzionato il metodo di indagine criminale, ha dato spazio alla psicologia, e in un ambiente nel quale la psicologia era considerata un vezzo, un lusso, una cosa inutile. Non ha fatto tutto da solo, ha avuto dei partner eccellenti, Bob Ressler, il suo collega, poi la professoressa Ann Burgess, ma l'intuizione che ha portato a tutto questo è sua, è di Douglas, l'intuizione di parlare direttamente con l'assassino, col serial killer, di riuscire a creare, come dire, una specie di empatia con questi personaggi per capire i loro meccanismi, e quindi eventualmente un giorno di poter prevenire determinati atteggiamenti criminali in qualcun altro. Dopo una fase di sperimentazione, questo tipo di servizio diventerà molto popolare, anche se per anni per i dipendenti del bureau l'analisi dei profili psicologici sarà ancora lungo, insomma una pratica difficile da comprendere. Intanto siamo arrivati ai primi anni 80, lui è nel pieno della sua attività di consulenza, tratta una media di 150 casi all'anno, vuol dire uno ogni due giorni o poco più, lavora con diversi uffici in tutti gli Stati Uniti. Questo vuol dire per lui anche spostarsi in continuazione da una città all'altra, anche perché per qualche tempo lui è l'unico profiler del bureau. Il lavoro è tanto, deve fare una selezione, deve scegliere quali casi seguire. Poi negli anni la sua unità viene ampliata, arriva a contare una decina d'agenti. Lui viene nominato responsabile del programma di criminal profiling, ha diritto a scegliere, a istruire i suoi collaboratori, molti diventeranno suoi amici personali. Insomma, il confine tra lavoro e vita privata diventa labile. Questo non è un bene, perché portarsi il lavoro a casa è quasi sempre negativo. Quando portare il lavoro a casa vuol dire avere nella testa la storia magari di un serial killer, e questo può provocare danni in famiglia, e infatti i rapporti con Pam cominciano a logorarsi. Nel 1993 io e Pam ci separammo dopo 22 anni di matrimonio. È probabile che al riguardo le nostre versioni divergano, ma alcuni fatti sono innegabili. Passavo troppo tempo lontano dalle nostre figlie, che stavano crescendo, e quando ero in città Ero talmente indaffarato che Pam doveva comunque cavarsela da sola. Finimmo per frequentare ambienti diversi. Nell'impossibilità di parlare coi suoi amici del mio lavoro, avvertivo sempre più forte il bisogno di stare con chi poteva capirmi. Può sembrare egoista, ma quando si passa la giornata a cercare di immedesimarsi in un assassino, parlare col vicino della staccionata da tinteggiare o della collocazione del bidone dei rifiuti, non è altrettanto stimolante. Nella primavera del 90 John diventa capo dell'intera unità di analisi comportamentale. Ormai il reparto, il dipartimento conta più di 40 persone. Comincia a delegare parte dei suoi compiti. Non lo fa con piacere, perché lui ha sempre preferito l'azione, però i suoi superiori lo vogliono lì. Lui deve preparare gli altri, non può più esporsi in prima persona. Ressler continua a occuparsi di ricerca, mentre invece lui, insomma, sta assemblando, creando specializzazioni. Per esempio, c'è chi segue gli stupri, chi i crimini sui minori, chi si occupa di molestie, di pedinamenti, di serial killer. E l'esperienza di Douglas investigherà non solo i metodi, ma anche l'immaginario popolare, perché lui comincia a scrivere diversi libri, alcuni direi più divulgativi che tecnici. Uno dei più famosi si chiama Mind Hunter, è stato scritto insieme a Mark Olshaker nel 94, e da questo libro abbiamo tratto i contributi che avete sentito in puntata. Ma c'è anche una serie TV omonima ispirata alla biografia. I libri di Douglas diventano negli anni una bibbia non ufficiale per molti sceneggiatori moderni, insomma portano a riscrivere il concetto, diciamo, di crime fiction così come oggi lo conosciamo. Robert Ressler è morto nel 2013 al termine di una brillante carriera da ricercatore ma anche di scrittore. Anne Burgess ha 82 anni, insegna ancora all'Università di Boston. John Douglas invece è più giovane, ha 73 anni, vive in Virginia, si gode la sua pensione. Tutto questo ha portato, tutto questo lavoro, questa equipe inizialmente di 3 persone e poi di tante altre, a risolvere migliaia di casi, ma anche a scrivere decine di libri che sono diventati bestseller. Nei film, nei libri, nelle serie televisive la psicologia criminale è molto trattata oggi, sempre più. Poi in realtà è trattata meno nella realtà dei fatti, e i motivi sono parecchi: l'impegno economico, la scarsa apertura mentale che c'è ancora in certi ambienti. E pensate, questa è la situazione oggi, immaginate quello che aveva dovuto affrontare Douglas a suo tempo. Noi non abbiamo volutamente approfondito determinati casi seguiti da Douglas durante la carriera, perché sono tanti, sono complessi, sono anche crudi. Nei suoi libri però lui racconta tutto, sono libri affascinanti e terribili. Se non siete troppo suggestionabili, vi consigliamo di leggere almeno uno, tenendo sempre a mente che quello non è fiction. Douglas si è confrontato per tutta la vita quotidianamente con questi scenari e non deve essere facile, insomma, passare giorni a parlare con un serial killer, scoprire i suoi segreti, affondare in qualche modo negli abissi di una mente così terribilmente particolare e poi tornare indietro alla vita di tutti i giorni. Ci vuole empatia, ma ci vuole vuole anche freddezza. Non è facile, forse, a volte, quello che dicevamo prima, portarsi il lavoro a casa diventa un fardello col quale vivere. 25 anni di osservazione mi hanno insegnato che criminali si diventa più di quanto non si nasca. E ciò significa che a un certo punto della loro vita questi individui sono stati esposti a un'influenza profondamente negativa. Ecco perché credo che oltre a più polizia, più denaro e più carceri, ci sia anche bisogno di più amore. Ci sono colpi d'ala nei quali si vola in alto, ci sono colpi d'ala nei quali si sacrifica se stessi, la propria vita privata. Succede quando fai un lavoro che diventa la tua vita privata, è il caso di Douglas. Però grazie a questo lavoro in qualche modo tutti possiamo vivere la nostra vita un po' più al sicuro, tutti sappiamo qualcosa in più su quelli che sono i meandri oscuri della mente e di conseguenza anche i pericoli ai quali andiamo incontro. Se volete mandare commenti o segnalare altre vite su cui puntare il nostro microfono, scrivete al Falco il Gabbiano, visitate la nostra pagina, cercateci sui miei social, sui nostri, insomma, se volete ormai sapete dove trovarci. Ciao, a domani. Falco e il Gabbiano, un programma di Enrico Ruggeri. Testo di Paolo Buzzone, produzione a cura di Luigi Speciale e Anita Panizza. Satispay è l'app che ha già rivoluzionato le modalità di pagamento di 500.000 di italiani. Con Satispay puoi pagare nei negozi, scambiare denaro tra amici, pagare ricariche e bollettini, fare donazioni e risparmiare in modo smart. Scarica gratuitamente l'app Satispay per Android e iOS. Vivi smart. Usa Satispay.